lì c'è l'ufficio del comune che ti sa. Siamo andati da tutte le parti con quella macchina. Lo credo, sì. così va bene, un impianto a gas va bene, non guardi, diciamo, se fare qualche chilometro in più, ma quando si va a benzina, ui, ci volevo 50 euro, capo, non ho capito, è un casino. E vabbè, questo mese due piedi della moto me li ho fatti gratuitamente. Risparmio per gas, perché praticamente io faccio i punti all'aggio e poi convertire o in benzina o in gas o in gasolio, se vuoi, se non prendi i regali io preferisco mettermi la benzina. Va bene, va bene, sì, già, e un risparmio anche quello. Avanti signor Vela, se ancora all'ascolto sul canale 21 binario 21, aspetti un attimo che c'è qualcuno che mi sta dicendo cosa, riprenditi il fatto. Ha fatto la sera, ha fatto la sera, ha fatto la sera, ha fatto la sera. tutti i giorni a cena, a casa, a pranzo. E si infanzia perché era succio, per cui siamo ormai così da fare le pecore timbrate col timbro di cosa del padre, non la farò sospiro. Ce n'è di gente che non ti puoi fidare. E quanti, Giuseppe, quanti trattati da amici e cose e ti danno la pugnalata? È così, non ti puoi fidare di nessuno. Non tutti hanno buonismo, non tutti sono buoni. Ci sono amici che magari vai a confidarti e cose, poi trattano la tua confidenza come arma, no? Vanno e spiattellano ai 420. Infatti è così. E poi stanno tralasciando oltretutto una cosa molto importante. E soprattutto bisogna guardarsene bene la denuncia. Soprattutto quello. Cappa. Guarda. È una cosa che nostro Signore ha inventato, io non so, forse l'ha inventato in un momento di disperazione. Qua se ci mancano. Mia moglie ha detto poi che ti fa la servetta, ti lava la roba, te la stira, ti prepara il pranzo, vai e cercatene un altro a vedere. Perché io gli ho detto che la servetta bisogna rottamare come le macchine. Giuseppe. Attento Giuseppe. Eccolo qua. Appena superato il corso di Santo Luca. Capai, già arrivi bene. Mi arrivi benissimo. Con quell'antenino là dovevi provare, cara. Ne hai tolto una dall'altra antenna e l'hai messa lì. Hai tolto una fittina dall'altra antenna e l'hai messa lì. Ma adesso non c'è quella corta, c'è la lunga. Sì, adesso la lunga, e c'erano professionali già, cioè non me lo voglio fare con calma, e perché stamattina avevo alcune cose da fare, non avevo tempo per regolarla. E tu ti dava? Sono riuscito a farlo spendere il cambio a chiude. Che cazzo, e allora buona. Allora non va con la carica, non va per quella carica. Non toccatelo perché quella della Pirecimilox è più carica, capito? Non vorrei che magari non andasse bene, anche se la struttura è quasi uguale, però ci sono più giri di carica, quando mi stava facendo un attarino, perché lui le ha aperte, le ha viste, c'ha più carica, ci sembrano uguali, però la carica della Pirecimilox è superiore, perché quello che non ha è l'ombretta ce l'ha in carica, capito? E non vorrei che magari non abbia fatto il calcolo che la carica di quell'antenna della PDC 1000 non vada bene per la Minox. Infatti poco fa, prima di sospendere, volevo dirti quello lì a te, a Giuseppe, che ho guardato la scheda di quella cosa, la carica non va bene ed è diversa. Ah ecco, vabbè. Ne pensavamo, ma era una prova. Vabbè, sentiamo, vediamo un po' se a me mi dà l'istazione, non me ne dai, a lui ne dà 5, vuol dire che è la carica proprio, perché lo stilo è fatto in ugual maniera. Quella, la Minox, ha già 3 giri in più. Anche se sembra come struttura uguale. No. Poco fa, poi ho sospeso e meno giri, e quindi è quello lì che ti crea stazionario, perché avendo più giri, ciò che non c'ha in lunghezza ce l'ha in carica, capito? Vabbè. Si può anche provare, vedere, ma non penso che vada bene. Io ho proprio la carica della Minox, quello che era sbagliato era lo stilo, gliel'ho fatto io su misura e va bene. Dove si avvicina? Adesso ti stai abbassando, Santiago 5. E vabbè, comunque deve essere che quella zona lì è coperta, forse quella montagna che c'è, dove c'è la casa di Heidi, di montagna. Non sai dove è la casa di Heidi? Hai visto dove volano gli aerei e cose, gli aerei ultraleggeri, che c'è quella, diciamo, quella collinetta con la casa in punta? No, praticamente il bar della torretta di fronte, c'è quella casetta. Vabbè, comunque c'è una montagna lì che ti copre. No, molto basso non sei molto basso, io ti dicevo da 5 a 6, però la radio è bella. Però quando ti fermi voglio che mi regoli l'amplificazione della radio, a vedere se si può amplificare di più la radio. Voglio vedere in lontananza, aumentando l'amplificazione, a vedere se arriva più forte. È chiara, è chiara, non è che sia, però lo si sta più forte quella radio lì. Sarà il migliore del 2000, consuma meno batterie e tiro. Ma devi contare che noi lo usiamo ogni giorno, Giuseppe. Chi te la ragione? Adesso provo ad attaccare l'altro, dai, vediamo un po' che te lo facciamo girare un po'. Che sono un po' che non attacco. Ma te lo Pierumberto, sì. Papa, Pierumberto. Giovanni come arriva lì, forse è basso perché non è zona mia. E un periodo lo stavano tartassando, piano mollato un po'. E perché quello non può? Quello lì è il vecchio passetto. No, se tu quando entri dove c'è la capitaneria, hai visto l'entrata lì, c'è un cartellone che la nega, c'è scritto divieto di pesca. Non si può pescare mai nei porti. Prima si poteva fare, adesso si può più fare. E quello lì è un punto buono perché entrano da fuori, ho preso certe umbrine lì, di usavio, sì, per i brutti. Stavo dicendo che a Molo Cattaneo però bisogna fartela tutta quanta da marinella, dalla spiaggia e andare su quella di Massi e uscire fuori dall'altra parte, se no non ti fanno entrare, è un casino. Di notte quello non si può fare perché è pericoloso, ma a me piaceva andare via a Molo Cattaneo, prendevo belle orate lì, ho preso anche dei bei roccali, ma belli a vino. Pensa a Giuseppe che una volta c'aveva Edoardo mi o Pierpa c'aveva la carne impanata nel panino, a posto la carne impanata da là mi ha pigliato un roccale. Zona mia ancora. Oh, bene allora. Va bene questo apparecchio, com'è radio, com'è chiara? Oh, mi sono fatto andare sul 41 Giuseppe. Scusa? Sul 41 l'ho fatto andare Giuseppe. Facciamo lì, no? Siamo tutti qui. No, non sento Giuseppe, Giuseppe, buonasera, ci mi senti? Io mi dispiace, ma sto parlando. Dai, sarà qualche zona d'ombra. La macchina è? Quella è macchina, sì, sì, è macchina, sto girando. Boh, mi dispiace, ma io non lo sento. Lui mi sente a me? Dove ti trovi, Giuseppe? Ho dovuto agli splatti delle bande laterali, ti stanno coprendo, non è altro. Ma è già... Se non ho copiato, gli splatter lo coprono. Giuseppe, ho detto dimmi dove ti trovi, non ti ho sentito perché sono degli splatter qua. Ah, di fronte alla capitaneria. Ah, è giù a Porto Torres. Cavolo. La parrocchia, dov'è? Tutti al papo, a casa. Bravo, negativo, negativo, io sono... E già di via Carlo Felice, non so se mi ascolti bene, io lo sento comunque Giuseppe, E io magari non lo sento perché sono, diciamo, qua i punti, là, dentro i punti. Tata, no, io già lo ascolto bene. Tata è positivo Giuseppe, ci riascoltiamo più dopo. Ah, Tata è già salito, ma sei là. È positivo, è un gatto. Sono un gatto, ho capito. Cava cava, vicino a Gianni, là. Cava cava, cava, ho capito. È positivo. Devo andare a fare la caffeina. Cava, mi sa che la caffeina me la faccio anch'io adesso. Gianni, vieni a farti la caffeina. No, adesso no, adesso non ne ho voglia. Non a Giugana, esco più tardi. Mi voglio riposare un po' per fare, non a Giugana. Ma ci vediamo, a quel pomello del lineare, tanto te la fermavo. A posto, piantate tutto. Visto. Grazie, anche se è un pochino più piccolo però, perché se lo spingo tutto in fuori, tutto in giù, ne esce il tappo. Allora l'ho messo un pochino più... più in fuori, no? Comunque va benissimo. Cappa. Va bene, sono contento per te. Cappa Roger. Nuovo nuovo, hai visto? Cosa già? Era nuovo nuovo. Infatti ho detto, sicuramente questo non l'avrà mai usato, gli ho detto a Pierpaolo. No, ce l'avevo così, quindi ricambio. Da pezzi di alimentatori vecchi, di cose, io mi conservo tutto. Quando servono si tolgono fuori. Pagava. Allora io stamattina sono rientrato a casa, mi ho fatto tutti i microfoni Midland. E la prolunghetta per il coso, per il tornado, l'ho lasciata così. Mi ho fatto anche l'MP5, attacco Midland, con la prolunga. Ora mi muovo il microfono dalla banca, vengo a casa e l'ho fatto fuori. Piatto. Un attimo di qui. Cappa, riprendi Piatto. Cava cava. Sì, questo momento. Sant'Orso. Cappa, sta arrivando forte qua, Cava Roger, anche tu, Cappa, prova. Cappa, ti ho fatto... Ti ho fatto la cuore, tuo buongiorno. Avanti che vuoi col buongiorno. Un controllino, buongiorno a tutti, aspetta un secondo. Guarda un po' come sto uscendo. 1, 2, 3, oh. Allora, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Adesso già va bene, lascia così. Chiaro, limpido, recoaro qua. Ciao, buon pomeriggio. Ah, famiglia, cazzo, ma io facevo l'orecchio. Mi sto spostando col telefono in cuffia. Comunque stiamo a bere. Ciao Gianni, buonasera anche a te. E Massimiliano il bulldozer. Aspettate, mi devo scrivere che c'è. Sentivo gracchiare il coso. Il 2009, forse era troppo alto, perché sono andato a tenere una vicina all'altra. Cava. Dopo un po' io ho parlato, ho sentito, dopo un bel po' di tempo. Sì, una settimana mi pare che era, no? Forse una settimana e mezza. Pagava, e vabbè, in genere, tanto ci sentivamo tutti i giorni. E non potevo entrare, sennò mia moglie già sarei entrato. Capito? Sempre sdraiato nel letto, vero? Già lo so, già lo so. Ma sembra di sì, allora se domani vado in cardiologia, come mi ha detto Natalino, vado a portare questo foglio per fare questa ergografia, per una cosa del genere, vediamo noi. Magava, tutto Roger, da, meglio così, sono contento per te. Riprendi Gianni. E c'è questo qui che facendo un macellone, non se ne comprende nulla, fa musica, questo e quell'altro. Scusate un attimino che cerco di mettere a posto il tutto qua, si è rotto. Pagava, vai per padre, dove sei tu? Proprio a Carro Felice sono. Ah, certo, dove stanno andando forti con la banda laterale. Forti sono, non è passa. Ma se ne siete in pace, se cazzo non fa tretta qua. Supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera, supera perché quello di Calvino mi fa anche quella Gigi, ho capito. Thank you. siete anche a casa per la scuola, ripeto, Ambrose. Brillante, come proprio, ora trovare l'orecchio. E anche alle donne va bene, va bene. Il baracchino va bene anche alle donne, ce l'hanno squillante. Certo, ce l'hanno squillante, già. E beh, mo dove si? Sì, io. Ernia. Sempre fermo lì ciò. Oh, mi ha sanguinato anche le calze, dai, non ha mancato. Metti di ghiaccio. Già fa. Meglio così allora. Abiscia ce l'ha presente, ce n'è dal letto. Si scivola e si fa scendere in terra. A proposito, sta a testa in giù, non è logico che ci usa. Sì, è peggio di cosa di Alessia. Quando viene a casa di mamma si mette a ballare sul palletto. Ma poi quando guarda dal letto si batte male e comincia a piangere. Oh, io questi bambini che... Cabra cabra. Piero. Dica. Beh, con l'apparecchio guardato, ma... Con l'apparecchio guardato, non lo so. Mo? No, lo lascio, l'ho sospeso per accompagnare, adesso appena che rientro gli rimetto mano. Lo sospeso, ce l'ho poco fa a mano. Adesso appena che rientro lo riprendo. Ah, campata. Ehi, perché se non va a prendere lo spedisco. C'è poco da fare, non è che bisogna di andare uscito. Infatti io provando ci sto, adesso vediamo, stavo leggendo un po', più che altro, cioè l'avevo acceso anche, stavo leggendo un po' le cose, capito, cioè stavo guardando lì se c'era qualche cavillo. Avanti, lisci, rinzinzi, dice che sei stato poco bene, Ali. Alessio? Tu? Un po'. Boh, non rispondo. Che non risponde? Pomponi. Sono qua. La tua cara normale c'è una propagazione francese allucinante, come tu cosa ascolta? C'è poca di francesi di scuola normale, sono pieno, Dove? Dimmi dove che andiamo subito a fare di ex. Sono 12, ce n'è, poi ce n'è anche... Fate il giro di cane normali. Ma sento con Bazzucca. Sono per francesi, sento bassi, sentiamo 2, 3. Tu li sento chiari. Allo? E io sono l'11, normale. Siamo un amico in cui ti ride la Sardegna d'Italia che ti fa pelle. Ici la station del Taromè della Ville di Sassari. Attention mon ami José. Comment ça va ce soir? Au revoir mon ami. Vuoi ballare con me? Ehi, c'è la propagazione, pensavo fosse anche qua. E poi tu arrivi proprio un po' bassino, quindi mi fregato. Vedi, perdo un attimino che scendo nel canale normale. Ehi, attenzione. Ascolti la velina che ti fa la chiamattina, cambia! facendo basso, non ti segnare. Ci sente tornato. Lo senti per... Sì, che lo sento. Ma mi è scomparso di nuovo. Dove sei tornato? Stasera dico una cosa. Mio buon Giuseppe, ci senti? Dove stai passando? La città 31. C'è traffico sulla Budibudi adesso. Thank you. sì, non ne ha di roba di fronte, perché un po' prima di entrare al Ghero, quindi è già in periferia lui, eh. Era più alto del suo e quindi magari sparava meglio, pure la zona era più libera verso Monte Oro, quella zona lì, e almeno arrivavo 9.5 con la Gran Premi. Santiago 9.5 con la Gran Premi. Poi se usavo il giambalisto ho fatto guai, era senza il tuo padre. Ma vabbè, l'apparato che usavo era su 10 watt, non era 5, era Reagan quinto, più microfono Turner più 2 da Palmo, Turner più 2, ovunque. E poi c'aveva anche il giambo, ma non lo usavo di giorno, lo usavo di notte e tardi. E beh, spegneva le luci di casa quando lo accendevo, si abbassavano le luci. Poi avevo venuto tutto. E beh, si è trasferizzati, sì. Quelli valvolari che per scaldare le valvole assorbono un po' di corrente. Quando sono belle incandescenti, ma se la corrente che assorbita. E beh, ogni colpo di portante fa girare il contattore a 1000. Ma poi anche come convenienza, la valvola si consuma e dopo un po' di tempo vuole cambiata, si esaurisce piano piano man mano che la usi, si esaurisce brutto, rapido, come la lampadina, anche peggio. E le valvole sono sempre un problema a trovare, secondo le valvole sono, non le vendono più, oppure le fanno con diverso attacco, sa? Tutto fatto in modo che tutti comprano altro tipo di lineare e faccia guadagnare a loro. Esatto. Vabbè, la prova ce l'abbiamo avuta anche con gli altri cattivosi, ha perso la testa cercando delle valvole. Ecco, vabbè, lui non è che va su internet, io le ho cercate, le ho trovate anche, ne ho trovato due, però lui ne voleva tre, mi pare, ne avevano solo due a disposizione. €240. Ma quanto tanto costano le valvole? €80, roba così. costa quanto così più la spesa di spedizione e tutto quanto, come la copra lineare nuovo e basta. Guarda, io ti dico una cosa, ma è molto, con molta serenità, io che le aria valvole non le avrei mai fatto. Io te la appoggio, però. Nel senso che anche se surriscala, scoppiano, sono pericolosi, non è che sia cosa da scherzare, se non lo sai manovrare bene ti dà non pochi problemi. Lo so, una cosa è magari nella televisione, una cosa è come facevano anche certe radio con i cosi, no? Radio di Tedeschi parlo io, con le valvole tanto quanto, ma un apparecchio fatto per trasmettere, se non hai anche dei stazionari a posto, è una cosa delicatissima, ce ne devi stare sempre dietro quando hai un valvolare. I trasistorizzati secondo me sono più economici e più rendono bene lo stesso, non danno problemi. Comunque quello che non riesco a capire di questi lineari a transistor, no, no. Se li danno ad esempio per 300 watt, per 300 watt non se li danno mai. Giuseppe, secondo come li piloti anche quello lì, secondo che entrata l'idea di pilotaggio ti danno di più o di meno, dipende da quello. Ma mi stava dicendo Pierpaolo che per un 300 ci vorranno almeno un 30 ampere. Cavagava. Vabbè, comunque basta prendersi quell'alimentatore là, l'ho preso io, cogliendo 35 euro per prendere un alimentatore che dà 50 ampere. E 50 ampere è una bella botta, con 50 ampere hai risolto un sacco di problemi a casa. 50 è il mio, 50 ampere, ma non l'ho ancora attaccato, cioè l'ho fatto cambiare, quello nuovo l'ho provato, funzionava e non l'ho attaccato, l'ho lasciato da parte, tanto sto aspettando a fare una cosa, quando cambio tutto ti metto anche quello. Ma quello là la benzina l'avevano sostituito, quello che non si funzionava, quello di tecnocomunicazioni. Ma cosa hai detto Giuseppe? Non ho capito che mia moglie qua mi sta facendo un interrogativo. Quello di tecnocomunicazione poi te l'avevano sostituito, quello di Pettoso. Certo, dopo 3 giorni mi è arrivato. E vedi, anche quello vuol dire tanto, la serietà di quell'azienda lì. Insomma, non è poco. Una vez a Torino si trovava, mi scusi, ma forse l'ha rotto giù, ma forse ha attaccato qualche cosa che l'ha sovraccaricato, trova un bel discorso e non te ne cava. E infatti, ma non bastano prendere niente, ma giusto quelle poche cose lì, lo stretto necessario, poi per quanto riguarda le cose importanti che si prendono da lì, anche perché poi costano anche meno. L'apparecchio che lui c'aveva 220 euro, costava 165 con spese di spedizione e tutto. Figurati, ma va bene così. Va bene così, perché io guarda, ne sono portato da Fusaro, dalla volta dell'antenna, e sono stato fortunato che non le hanno portate, dai, dai. E infatti, si è andato bene con i miei consigli, dai. Certo, perché poi arrivato a un certo punto mi sono anche scocciato, perché non è che poi puoi pretendere dalla gente di aspettare, no, un certo tot di antenne, perché se no non rientri nel coso, non rientri nella pensione. Ma la pensione tanto la fai pagare lo stesso al cliente, ma ti vogliono fregare questa gente qui. Ah, ma poi fanno pagare la spedizione su ogni cosa, capito? Loro lo prendono, prendono uno scatolone e li fanno pagare un tanto, se ci sono 50 pezzi, loro ti fanno pagare su ogni pezzo la spedizione, ma se, mi già dice l'ha fallito per questa cosa, ne avevo fatto avere un bel cliente io, perché sono stato il primo cliente che gli ho fatto portare i baracchini e roba del genere. Abbiamo fatto avere un bel cliente all'inizio, poi hanno l'anibisato tutti quanti e noi abbiamo dato di cibo, faccia pagare le spese di spedizione su ogni pezzo, dice io le pago, sì, ma tu paghi per uno scatolone dove sono 50 pezzi e paghi un tanto, tu non puoi far pagare a ognuno le spese di spedizione, qui ci guadagni il 300%. Infatti è quello che io dico, cioè se loro se ne vogliono guadagnare a mani fatte, e quello non mi va bene. Non mi va bene perché loro di spedizione ne pagano una, perché organizzano, che ne so, 50 antenne, 200 rosmetri, 100 microfoni, 50 paracchini, tutto quello che è, ed arriva tutto un pacco a loro, hai capito? Però su quelle... su quei 300 articoli loro si fanno pagare 300 spedizioni. Io glielo devo dire comunque anche a Desiree, perché poi ho letto praticamente le spese di spedizione erano 11 euro, a me mi hanno fatto pagare 13 euro di spese di spedizione, questo non va bene, non per le 2 euro, però a Pina Barifondelli ho chiesto il corriere che mi ha fatto pagare di più e se li ha tenuti lui, oppure le signora... signorino nuovo che ha sbagliato, glielo devo puntualizzare questo affare qua, perché a conti fatti c'è, cioè, il primo cliente che ha avuto a Sassari, gli ho fatto comprare un po' di roba, tutto quanto, se parlo con lei molte volte mi dice vabbè ti faccio uno sconto, se parlo con quello nuovo mi aumenterà la cosa, come pensi a cose, dopo anche questo apparato nuovo che è arrivato è una delusione, Giuseppe, nel senso che non vale, sentito? Ma perché non gli fai il pacco invece? Glielo rimandi indietro e te lo fai sostituire magari con un altro, visto che sono terminati quelli. No, io volevo quello lì, perché quello che hai preso tu c'ha i salti di memoria, capito? Non è la sintonia continua. E allora che cosa vuoi fare con quello? Ah, non lo so, io voglio quello lì. Quando li arrivano me lo mandano, a me non me ne ha fatti nulla, però voglio quello. Quello lì mi piace a me. Cava, però ti conviene o chiamarla in maniera di già di precisarglielo, che gli stai rimandando indietro la radio, e poi alla prima occasione che te ne mandi un'altra. Adesso Pierpaolo la sta controllando, lo sta cercando di controllare le spiegazioni, le sta prendendo per vedere se c'è qualche cavillo che blocca qualcosa, capito? Se no glielo rispedisco indietro, sono sempre spese che devo fare io, cioè non è una cosa buona. Mi sta rompendo le scatole questa storia, già due apparecchi che non mi era mai successo, Giuseppe, anzi un microfono, vabbè, che consumava un po' di batterie, non durava manco una settimana, si scaricava, cazzo, doveva così, sa cosa. Le ho telefonato anche per dire, la metto in rimanda, ma lei ti ha spedito e tutto, ci spendo di più, spedire di spedizione che altro. Perché di cosa? Di spedizione? Se glielo devi rendere di nuovo, non te ne rimborsa? Cosa, Giuseppe? Dico, se devi rendere un apparato che è difettoso, quelle le spese che affronti tu per rimandarglielo indietro, non te ne rimborsa? Una cosa, no, quello no. Se lo rispediscono indietro loro senza farti pagare nulla, però quelle che hai speso tu per mandarlo, no? Aspetta! Giuse! Avanti Pierpaolo! Ma lo senti? Scappa, forte ghiaccio qua! Forza che la vicino mai! Non mi avevi visto! Cava! E sì adesso, Giuseppe? Siamo qui alla prima rotatoria dei Gelate Drupe, via Pirandello. Già va bene. La radio va bene adesso, dai, è forte e chiara. È la lontananza che abbassa un po' anche la radio, ma adesso è fortissima, proprio bella forte, si sente bene. L'unica cosa c'è da fare è quello che ti ho detto ieri sera. Ma adesso vedo se riesco a trovare qualche buon usato in circolazione e glielo metto e non lo tocco, perché a me quello che mi scoccia è togli metti, svitta, stacca e coso, no. non lo so se ce l'hai usato lì. Ma c'era anche su internet, basta guardare. L'ho visto l'altro giorno, mi pare. C'è addirittura quello che va con 200. Non ho fretta perché è più importante di quella cosa lì. Piano lo faccio come sto facendo, adesso vedi la radio che ho ordinato. Io sto mettendo da parte ogni mese, tanto ce la faccio, 20 euro, se non ne metto 10. Me ne dimentico che sono messe da parte e poi quando i soldini me la prendo. E anche io faccio anch'io così. So, piano, adesso devo ripartire da capo se voglio mettere a lui la copiata vincente, no? Adesso devo ripartire di nuovo da capo, ogni stipendio metto da parte, qualcosina, me ne dimentico che sono lì, poi il mese dopo vado e rimetto gli altri, se no non ce la faccio mai. Beh, togli tutto in una volta, è un po' salita, non conviene. Conviene mettersi così da parte come faccio anche io. Infatti, non ho vizi, non ho niente che cosa fare. L'unico vizio che ho è che mi piacciono le donne, però no, quello non me lo posso togliere già. Allora, col mattarello, oi. Pier Paolo, tu dovevi vedere lo sguardo fulminante di mia moglie, non si è scomposta con la testa, ha girato solo gli occhi. Kappa. Me lo posso immaginare. Giuseppe, se lo dici davanti a me vuol dire che sei bravo. Mi sento tutto aperto il microfono. Giusto. Niente, io ho detto il mattarello, chi è? Lo pizzetta Ciaffi di Nefede, Giuseppe. Ah no. Ma non sono gelosa, uomo, che sta mio vita. Fai bene, tanto siete gelosi e poi ti fai il puzzle. Te lo costruisci da sola, poi e magari tutta un'altra cosa. Io amica che sono gelosi, dice, si costruiscono il puzzle, si immaginano già le cose come sono, se le costruiscono come se fossero vere, poi stanno male loro. Le stanze doppio rumba, non le stanze quelle. Dicono una cosa con l'altra, poi magari. Ma sono tutte cose diverse, capito? La gelosia è un brutto sentimento. Oh, la fatica che ho fatto oggi dopo pranzo. E cos'è combinato? Non sapevo cosa fare, no? Ecco, se rimango a casa mangio, anche se oggi ho mangiato benino, dai, un pochino più degli altri giorni, visto che è domenica. Mi sono fatto una passeggiata, no? Vado, ecco, mi faccio una passeggiata così vedo un pochino di digerire. Tanto quella con la bambina si sono sdraiate e via. Beh, sono uscito da qui, mi sono fatto via Grazia Deledda. Poi da lì ho tirato dritto, ho fatto tutto il viadotto. E via Tronizzetta, via Le Maneli, via Le San Francesco, Ponte Rosello è rientrato a casa. Fa bene. Caffa, però fa bene. Sì, già lo so, anch'io facevo delle grosse camminate. Prima le facevo anch'io, adesso un po' di meno. Mi sto un po' adagiando. Caffa. Fai adesso mi vedo secondo che aria tira a casa. Una passeggiatina me la rifaccio, tanto, ma tante bene, senza fare sempre in macchina, capo. Per fare, sali a piedi. Sono la piedi a casa, adesso devo andare a mamma che è raggiungermi. Caffa, chi hai? Sì. Ho capito, Giuseppe. Ho detto, chi hai fissi come macchina? Quella che quando la chiami arriva subito. Cioè, comandata a distanza, arriva un po' di meglio, comandata, arriva a casa, le comando e le arriva. Siamo in abbondanza. Ma anche il barattino, mi sta seguendo a distanza. Beh, quello lì va bene, cos'è? Via Bluetooth? Ultima generazione quella, no? Spaziale, proprio spaziale. Ava, anda bene, me da. Ma sì, io sono arrivato, Pier Fassa, adesso mi ho già posteggiato, me ne stacco l'antenna e vedo di rollare qualcosa, adesso vedo di inventarne qualcosina. Attimo, io sono arrivato a casa anch'io, è contemporanea. Va bene, ma proseguimento, va, io adesso ci metto anch'io la macchina e salgo su a casa. Dopo noi ci sentiamo dopo. Cavagava. Non va bene. Ciao, ciao Giuseppe, ciao la signora, ciao Veronica, ciao Pierpaolo, ci sentiamo dopo, va. Ciao Gianni, ciao Pierpaolo, ci sentiamo dopo.